Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signore e signori, sono le 14.32 di domenica 13 settembre, in diretta dagli studi di Radio 24 qui a Roma. Pino Insegno vi dà il benvenuto alla prima puntata di Voice Anatomy. Segnale, scatenate tutti attentamente le vostre orecchie perché parleremo di voce in tutte le sue declinazioni. Bene, ma non potevamo cominciare questo programma, almeno la prima puntata, senza l'augurio della The Voice per eccellenza, la voce. Allora abbiamo chiesto al nostro amico Frank qualcosa. And now the end is near. E allora, signori, benvenuti alla prima puntata di Voice Anatomy. Ma iniziamo subito il nostro mondo attraverso il mezzo di comunicazione più diffuso al mondo. Il primo, il più potente, di sicuro il più accattivante e coinvolgente, il più usato e speriamo il vostro preferito, di sicuro il mio. La voce, signore e signori. E allora, come abbiamo detto all'inizio, benvenuti alla prima puntata di Voice Anatomy. Ed ecco, partiamo subito con uno degli argomenti più popolari e suggestivi nel poliedrico mondo della voce: il doppiaggio. Sì, perché in Italia, insomma, bisogna dirlo, siamo i primi riconosciuti in tutto il mondo. Si doppia in tutto il mondo, in più di 120 paesi del mondo, e noi siamo i più amati dai nostri attori oltreoceano. Ma iniziamo subito la prima puntata con un ospite d'eccezione, una donna. Ma perché una donna? Perché la voce, lo dice il nome stesso, è femmina. E allora, signori, vi presento Domitilla D'Amico. Domitilla D'Amico è nata a Roma il 5 settembre 1982, spero non si arrabbierà perché figurati, ho detto la data. Ha esordito nel mondo del doppiaggio quando Carlo Baccherini, un grandissimo direttore di doppiaggio, la chiamò all'età di 8 anni per prestare la voce a due personaggi di un film italiano straordinario, ed era la voce della Luna. Ma ascoltiamo qualche piccolo stralcio tratto da alcuni film, che sono tantissimi, di Domitilla, prego. Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni. Certe persone non ci credono, ma invece è così. Ehi, stupido! Sentite, io sono Forrest Gump. Mettiti a correre, Forrest. Corri, corri! Corri, Forrest, presto! Non ti voglio vedere. Corri, Forrest, corri! Mi sento solo. Corri, Forrest! Tu non sei accanto a me mai. Io non ti la faccio. È finita. No. Lo sai cosa voglio per noi? C'è un'altra persona! Mi sono innamorata di un'altra persona! Sei un mostro. Allora, Banner, è questo il tuo piano? Cosa? Loki ha intenzione di scatenare Hulk. Tenete Banner in laboratorio, sto arrivando. Chiamate anche Thor. Grazie per la tua collaborazione. In ordine di apparizione vocale sono stati un Forrest Gump dannata quando era ancora molto giovane, poi abbiamo ascoltato Spider-Man, Mary Jane Watson, Kirsten Dunst, e poi The Avengers, e proprio roba di adesso, Scarlett Johansson, la vedova nera. Prima di cominciare a parlare con te però, amica Domitilla, vorrei ricordare alle persone che ci stanno ascoltando i numeri per intervenire qui in diretta, ed è un numero verde che è 800 24 00 24. Non è complicato, mi sembra che sia questo. E poi per gli SMS invece 349 238 6666. Poi aggiungeremo altri numeri di telefono per intervenire, per spiegarvi che cosa accadrà durante questa avventura di The Voice Anatomy. Ma bando alle ciance, sentiamo una delle voci più belle del panorama del cinema mondiale. Domitilla, caro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e soprattutto buon pomeriggio a voi due, perché voi non la vedete perché ancora la radio è evocativa, ma nasconde qualcosa, un secondo figlio in arrivo, ma spero non succederà in diretta. La grande pancia. Allora, quando hai cominciato, Domitilla? Ma ho iniziato che ero veramente molto piccola. E mia madre mi metteva queste favolette, le audiocassette, per farmi addormentare, e io le imparavo tutte a memoria. Quindi facevo tutte le varie voci dei vari personaggi, finché una sera a cena sono venute delle persone amiche dei miei genitori che lavoravano nel doppiaggio, nella CVD soprattutto, e io feci questo spettacolino. Quanti anni avevi? Più o meno 4. Già così? Sì, ero proprio piccola. E a quel punto feci questo spettacolino e rimasero tutti a bocca aperta. E, ma noi servono i bambini, portatela al doppiaggio. Bisogno che... perché, insomma, lo sai meglio di me. E quindi ho iniziato così, piano piano, come un gioco, e, con delle pubblicità all'inizio, e poi capitò appunto la voce della Luna con Fellini. Con che, maestro che ricordo perfettamente, ricordo ogni cosa di quella giornata. Poi è andata avanti così che tu hai raccontato le favole della notte a mamma e a papà. A mamma e a papà. Adesso le racconto io a loro. Com'è stato l'incontro col maestro? Anch'io ho avuto il piacere di condividere un Ginger e Fred con il maestro Fellini, l'unico film italiano poi che ho doppiato, anche perché noi cerchiamo sempre di fuggire da un doppiare degli attori italiani o delle attrici italiane, perché devono guadagnarsi il pane da soli. Esattamente, è mica giusto, però facciamo sempre le cortesie noi a loro. Però insomma, con Fellini lì poi comunque era una particina, e lui era sempre in sala, non andava mai in regia, si metteva sempre al posto dell'assistente, perché la sala, dentro la sala di doppiaggio c'è un tavolino dove è posizionata l'assistente del doppiaggio che deve guardare il sync della bocca, il lato tecnico, e lui era sempre seduto lì, e era piano di fogli e faceva schizzi in continuazione, caricature anche belle colorate, e niente, io conservo queste due caricature che sei riuscita? Perché sì, io... ma senza chiedere niente, mi ha fatto tutto. Invece sì, potete sapere che nei film di Fellini non c'è il copione, cioè lui gira le scene facendo dei numeri ai personaggi e poi in doppiaggio, in sala, si diverte a costruire il film proprio nei suoi contenuti, e anche con noi disegnava così, ma c'era un assistente che, come finiva lo schizzetto sul pezzo di carta, li prendeva, lei quello che c'era, per cui era l'assistente suo, per cui ha tenuto da parte tutti noi, cercavamo, Dio, ha quasi finito, ecco, e invece prendeva niente. E se ne andava così. Ma invece così me li ha proprio regalati, due schizzi debole, carini, firmati con le dediche, e li ho proprio, sono tipo incorniciati. Veramente, così. No, poi lui chiamava tutti con vezzeggiativi quando stava in sala, Minuccio, allora, cioè una voce proprio, non a proposito di voce, però non è la voce più bella da ascoltare, effetti, però era Fellini, un genio. Ci sono tante altre voci, ma bene, allora hai cominciato così. Ho cominciato così, e poi piano piano ho fatto tutto, scuola, tutto regolare, non ho fatto corsi serali, niente. Perché poi è difficile, voi sono dovete sapere. Sono riuscita a fare tutto, e insomma sì, non è facile perché i tempi sono quelli, il pomeriggio comunque andavo a lavorare, la mattina a scuola, e niente, andavo avanti così finché piano piano, poi arrivati i 18 anni, insomma è arrivato questo film importantissimo che era American Beauty, ho fatto il provino, ho vinto il ruolo per Mina Suvari, che il personaggio era Angela Ace, e da lì insomma poi è film è doppiato da un altro protagonista che scopriremo più tardi, Roberto Pedicini, Roberto Pedicini su Kevin Spacey. Ma abbiamo già una telefonata, per cui ovviamente il nostro programma è anche osmotico da questo punto di vista, perché sì, noi spiegheremo l'utilizzo della voce in tutte le sue declinazioni, daremo delle dritte, aiuteremo, saremo un po' anche i tutorial da questo punto di vista, ma scopriremo anche il linguaggio, la sociolinguistica, e poi insomma cammineremo insieme per mano. Non voglio svelarvi niente di più, ma abbiamo da Roma una prima chiamata. Ecco Maurizio da Roma, pronto? Buongiorno. Buongiorno Maurizio. Volevo fare i complimenti per la trasmissione che è appena lanciata, ma insomma lo farei già i complimenti perché la musica è stata molto speciale. Bene. Con Frank Sinatra. Ah, è Frank Sinatra. Sì, quella che avete messo all'inizio. No, ero io che cantavo al posto di Frenzinata, ma non te ne sei accorta, hai visto? No, scherzo, ovviamente la Frenzinata si è capito perfettamente. Volevi chiederci qualcosa, Maurizio? Sì, volevo intanto fare i complimenti alla doppiatrice, perché io la conosco, perché sono appassionato di cinema, di film, e mi ha sempre appassionato il doppiaggio. Grazie. E quindi Domitila la conoscevo perché quella che ha poco detto, pochi minuti fa, in American Beauty, e insomma sono rimasto particolarmente insomma colpito dal tono, dal timbre della voce, e le volevo fare una domanda: qual è stata la prova più difficile? Perché so che il doppiaggio non è facile, è molto difficile, e prima di arrivare all'edizione finale bisogna fare tante prove, ripetere. Qual è stata l'esperienza che ha dovuto, diciamo, impegnarsi di più per affrontare e per risolvere? Lo può raccontare? Beh, vabbè, in realtà nel corso degli anni ce ne sono state svariate. Ricordo con grande impegno The Dreamers di Bertolucci, perché lì non era soltanto una questione di recitazione, ma dovevo parlare anche parigino del 68, quindi avevo quindi avevamo sempre questo consulente in sala. Io comunque parlo francese perché sono quasi madrelingua, però parigino del 68, come desiderava appunto il maestro, era un po' complicato. Del 68, la prima volta mi capita sentire una lingua abbinata a un periodo storico. E poi il maestro insomma voleva tutte le scene in sala, quindi avevamo allestito tutto quanto, i divani, i bicchieri veri, sigarette, quindi era tutto fatto dal vivo. Quello è stato molto difficile. E adesso un'altra esperienza particolarmente complicata è stata Penny Dreadful, che è una serie che sta andando in onda su Rai 4 la sera, e lì faccio un'indemoniata, quindi tu capisci che con un pancione così grande insomma l'ottavo mese c'è il rischio che durante il turno nacque. È stato bello difficile. Va bene, grazie amico, grazie. Mio, grazie Maurizio per la prima telefonata. Io fermo per un attimo la voce suadente, meravigliosa, molto meglio della mia da questo punto di vista, no. Per commentarci un attimo, ci allontaniamo da voi, ma The Voice è appena cominciata. Tu ti stavi comportando davvero grande stronzo. Allora io ho deciso di lasciarti. E siccome faceva freddo, ho preso il tuo giubbotto del cazzo. Quindi, se ti fai prendere da una delle tue solite crisi del cazzo per un giubbotto del cazzo, prenditelo, cazzo. Preferisco gelare, cazzo, che sentire ancora questa cazzo di storia, cazzo. Voice Anatomy. Papi, la sai un'altra cosa? Mami si è stufata sul serio di portare le mutandine. Sì? Sì. Infatti ha deciso di buttarle tutte via. Quindi guarda bene, papi. Vedrai tanta di questa bella robina in giro per casa. Oh, baby. Oh, sì, mami. Sì. Ma senza toccare. L'orario non lo consentiva, però l'abbiamo mandato ugualmente. Era Domitilla D'Amico, futura mamma in The Wolf o Wall Street. No, non ero io, non ero. Sì, ero io. Ah, stai, ho fatto prendere un culo, era Margot Robbie. Sensualità, sentite voi la brillantezza, è quella la bellezza. Voi vi spiegherò bene com'è il doppiaggio, come si cambiano le voci, come si imposta, cioè, ma la sensualità nella voce di una donna o di un uomo non è soltanto fiati, come si faceva in un periodo con le telefonate, quelle 166, eccetera, che la gente ti respirava nel telefono. telefono. Io non l'ho mai fatto il numero, però lo so. No, no, infatti. No, no, poi c'era l'144. Esatto, tu facevi svoltare il lunario. Sì, certo. Com'è? Un po' di sensualità nella voce, si mette tanta aria nella voce per diventare sensuali, oppure no, oppure sì, si alleggerisce, no, si rallenta. Si alleggerisce, prima di tutto, secondo me, io uso molto anche il diaframma, vado sulle basse, comunque un po' di timbro ci vuole. Il diaframma è un muscolo che non è soltanto un attico eccezionale, mi raccomando. E poi sì, un po' di fiato, ma poi è sempre lì, ci devo mettere dirmi, il cuore. Signore e signori, benvenuti a Voice Anatomy. Signore e signori, benvenuti a Voice Anatomy. Sono le 24:00 di domenica. Bene, a questo punto facciamo il grande contrasto. Qui Domitilla D'Amico, Eros nella voce, ma soprattutto adesso Domitilla D'Amico, mamma che racconta una favola. Una storia, una perché ogni autore, attore che verrà qui o doppiatore sceglierà un pezzo da regalare a voi, carissimi radioascoltatori, e lei ha scelto una piccola storia di Hans Christian Andersen, che non è un giocatore dell'Olanda, ma grandissimo poeta, letterato e quant'altro. Un po' macabro. Sì, però ne abbiamo scelta una abbastanza leggera. Si intitola C'è differenza. Okay. E c'è anche una pronuncia danese che non mi accingo a raccontare, non la voglio dire. E vorrei che tu cominciassi a leggere questa bella favola. Era il mese di maggio. Il vento spirava, sì, ancora freddo e tagliente. Ma alla fine la primavera era giunta anche in Danimarca, dove il suo carro arriva tirato dalle tartarughe. Cespugli ed alberi, campi e prati, tutti lo dicevano. Ecco la primavera. C'era abbondanza di fiori dappertutto, persino sulle siepi, e la primavera faceva in persona i suoi affari, predicando da un piccolo melo che non aveva messo se non un unico ramoscello. Ma il ramoscello era fresco, coperto di fiorellini rosi, lì per aprirsi, e sapeva benissimo di essere bello, perché tale coscienza è nella foglia come nel sangue. Per conseguenza, non fu punto sorpreso quando una carrozza di gran casa si fermò proprio di contro a lui sulla strada maestra e la giovane contessa disse che un ramoscello di melo in fiore è la cosa più bella che si possa vedere, vero simbolo della primavera nella sua forma più gentile. Il ramoscello fu colto con ogni cura ed essa lo tenne nella mano delicata e gli parò il sole col suo ombrellino di seta mentre la carrozza tornava al castello. Quivi gli atri spaziosi e le lunghe file di stanze si apersero per accogliere la castellana. Le candide tende erano mosse dall'aria. Dentro a grandi vasi di puro cristallo stavano i più splendidi fiori e in uno di questi vasi, che sembrava scolpito nella neve appena caduta, fu collocato il ramoscello di melo tra alcune verdi fronde di betulla. Era proprio un piacere vederlo. Ma il ramoscello mise superbia, il che, del resto, è molto umano. Capitò nel salotto gente di varia specie e ognuno esprimeva la sua ammirazione secondo l'indole sua. Alcuni non dicevano nulla e altri dicevano troppo. E così il ramoscello imparò che c'è differenza tra uomo e uomo, tale e quale come tra pianta e pianta. Alcune sono create per la bellezza, altre per l'utilità, e ce n'è parecchie di cui si può far senza benissimo, pensava il ramoscello di melo. E poi che stava giusto di contro alla finestra aperta, dalla quale poteva vedere il giardino e i campi, al di là della cancellata, non gli mancavano fiori e piante da contemplare e da prendere per oggetto di meditazione. V'erano piante di lusso e piante umili, alcune umilissime davvero. Povere erbe disprezzate, diceva il ramoscello di melo, sicuro che c'è differenza, e come debbono sentirsi infelici, seppure quella specie di individui sente come me, come i miei pari, sicuro che c'è differenza e che bisogna distinguere tra gli uni e gli altri, se no si sarebbe tutti uguali. Il ramoscello guardava con una certa pietà soprattutto a una specie di fiori, i quali crescono in grandissima copia nei campi e sul margine dei fossati. Nessuno li raccoglie in mazzo perché sono troppo comuni. Si trovano persino tra le commessure del selciato, spuntano da ogni buco come le peggiori erbacce e poi hanno un brutto nome, si chiamano soffioni o denti di leone. Povere piante disprezzate, diceva il ramoscello di melo, non è colpa vostra se siete tante e se vi hanno messo un così brutto nome, ma è delle piante come degli uomini, bisogna che ci sia differenza. Differenza? Disse il raggio di sole e baciò il ramoscello in fiore. Ma il ramoscello di melo non aveva mai pensato all'infinita, alla provvida carità del Signore nella sua creazione verso ogni cosa che ha vita e moto. Non aveva mai pensato che la bellezza e bontà possono rimanere, sì, nascoste, ma non dimenticate. Anche il non pensarci, del resto, è umano. Beh, guarda, questa è l'occasione anche per leggere alcuni sms che ci stanno inviando. Sì. Uno dice: mamma, che voce rilassante per il cuore. Uno non so se è tuo figlio, dice: mamma, che voce, oppure mamma come esclamazione. Anche qui è la voce che fa da padrona, perché l'intenzione mamma è una cosa, mamma è un'altra. Esatto. Mamma, è, mamma. È un'altra cosa. Siete forti, che bello sto programma. Uno mi fa ridere, a un certo punto sembrava la Ferilli. Ma no, ma come? Ma come? Ma perché parlo romano? Ma perché stavi seduta su un salotto? No, no. Auguri per la nuova trasmissione che sto seguendo con famelica curiosità. Ciao da Stefano, questo mi piace molto. Pochi bambini doppiatori. Capita che si usino adulti che fanno la voce dei bambini? Sì. Sì, sì. Anche se ultimamente un po' meno ho notato. Prima c'è stato, c'era un boom. Gli anziani facevano le voci dei bambini. Le anziane, le donne grandi fanno la voce del bambino di E.T., il primo E.T. Il primo Piaggetti era una donna, è vero, grande. Era Dominici. Esatto. Germana. Era Germana Dominici che faceva il bambino. Esatto. Ma anche la voce di Peppa Pig c'ha 42 anni. No, vero. È vero. È vero, è vero. Io è vero. Non so, però, se i bambini a questo punto. Però forse più per i cartoni, no? Magari sì, quando ci sono i personaggi veri, adesso si tende di più a. No, assolutamente a deve i assomigliare veri. La voce, devono essere bambini veri. Però in effetti è vero, vedrò questa notizia: Peppa Pig c'ha 43 anni. Ora mi chiamerà e mi maledirà. Ma cavoli tuoi. Ho capito, è vero. Cioè, però è perfetta. È perfetta. Bene, senti, sono migliore, veramente con te. È volati questi due blocchi insieme. Insieme a te dovevamo stare ancora di più, ma ci sarà tempo e modo, certo, di farti tornare dopo la gravidanza. Assolutamente, sicuramente. Sì. Bella, magra. Adesso che stai doppiando, Domitilla, a parte Penny Dreadful. Penny Dreadful, ho finito, adesso sto facendo Fargo. Fargo, ah, Fargo, la seconda serie. Stagione. È vero, perché adesso bene o male si vive su, fortunatamente, come negli anni Ottanta arrivarono Febbre d'amore, Falcon Crest e La Valle dei Pini, quando si, esatto, ama. Io facevo La Valle dei Pini, non potevo fare altrimenti. Beh, mi chiamo Pino, non potevo. La Valle dei Pini. La Valle dei Pini ero io. Ma anche Quando si ama, quella è stata una fortuna quando per si tutti ama, noi. Facevo. Per tu, eh sì, facevo, non lo so, 3000 persone, io tutti morto. I bambini, tutti i bambini facevo io. Certo, tu eri piccolo, ero già con un inizio di prostatite. Comunque, sì. Signorina Domitilla D'Amico, a signora, signora, mamma Domitilla D'Amico, io ti ringrazio. Grazie, ti ringrazio tanto, perché la tua grande professionalità ha aperto questa, questo ciclo di trasmissioni. Grazie, auguri per il prossimo doppiatore. Sì, aspetta, aspetta. Succederà. Fammi salutare Charlotte e Marco. Bene. E vi mando un bacio grande. Utilizza la radio per fonte privata. Ti credo. Va bene, Domitilla D'Amico, ma questo è soltanto l'inizio, signori. Voice Anatomy. Signori, bentornati, sempre Radio 24, Voice Anatomy, un viaggio attraverso il mondo della voce in tutte le sue belle sfaccettature. Abbiamo conosciuto il primo ospite, è stata Domitilla D'Amico, una straordinaria voce e una grandissima attrice. Io vi ricordo degli altri numeri, a parte quelli della diretta che già ho detto, ma ve li ridico: 800 24 00 24 per intervenire, per i vostri sms 349 238 6666. A proposito di sms, ne sono arrivati tantissimi, leggo alcuni. Ma si usa l'elettronica per variare la voce? No, è rarissimo questo, l'utilizzo dell'elettronica. Assolutamente sì, tenta e si deve riuscire a modificare la propria voce, a seconda se c'è ovviamente un effetto telefono, un effetto radio, ovviamente dopo il missaggio finale si utilizzerà quell'effetto tecnico dalla console di colui che misserà. E l'altro, a proposito delle favole, a mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrar, che erano le favole che le ascoltavamo quando eravamo più piccoli, almeno io quando ero più piccolo, per cui questo signore da Marco da Brescia mi sa che c'ha la mia stessa età. Poi qualcuno ha scoperto una bravissima attrice, io voglio dirlo, di teatro, che si chiama Daniela Vitale ed è calabrese. Nella presentazione di ieri ha letto delle favole in calabrese, vi prego contattatela, che è troppo brava, e noi prenderemo appunto da questo sms, eccetera eccetera. Poi li leggerò strada facendo. Ma c'è un altro numero che voglio darti, molto importante soprattutto per voi carissimi radioascoltatori, perché è un altro numero verde e servirà proprio per un voce, è una segreteria telefonica, qui è una Voice Box l'abbiamo chiamata, dove voi potete lasciare le vostre interpretazioni di una frase famosa di un film, di una poesia, di qualcosa che volete, e poi i migliori saranno poi contattati sicuramente per poi intervenire magari in futuro in un piccolo o grande film con una piccola o grande interpretazione. Questa è una cosa che vi regaliamo noi qui da Radio 24 e io me ne prendo tutta la responsabilità, per cui vi faremo ascoltare le vostre interpretazioni, per cui durante la settimana o anche adesso, se volete, utilizzatelo questo numero 828 12 12 e fateci sentire quanto siete bravi. Non dovete essere per forza dei professionisti, anzi, assolutamente no. E un'altra cosa, la vita non è un film, la vita è un film, dipenderà da voi. Un altro numero di telefono non c'è, ma c'è un sito che è Voice Anatomy con la illunga finale, Voice Anatomy scritto Voice Anatomy, ma lo sapete perfettamente, lo dico per me, con la bella chiocciolina radio24.it. Bene, qui dovete mandarci il racconto della vostra vita o qualcosa a cui tenete particolarmente, saranno lette in studio da grandissimi professionisti e per cui a questo punto la vostra vita diventerà un film. Questa ovviamente è la mail. Poi abbiamo ovviamente anche i nostri social con Facebook, Voice Anatomy, Radio 24 e il Twitter, non ci facciamo mancare niente, con @voiceanatomy, dove potete intervenire con tutti gli hashtag che volete. Bene, siamo pronti per un passo nel futuro, vi ho detto tutto, ho dato dei numeri, ma quello che do naturalmente nella mia vita, e continuiamo il nostro percorso nella voce, questa volta con qualcosa di tecnico, di qualcosa importante, qualcosa di molto interessante anche per me, perché io mi metto anche dalla parte degli ascoltatori per imparare qualcosa in più, e parleremo tra poco con la professoressa Franca Orletti, che è, adesso vi spiego, si è laureata nel 71 in filosofia presso l'Università degli Studi La Sapienza con una tesi in estetica, che ovviamente non è per rifare le unghie o i massaggi, mi raccomando, Ha orientato i suoi interessi scientifici verso la ricerca linguista, in particolare nell'ambito della sociolinguistica, della linguistica pragmatica e della linguistica applicata. Dal 2000 è professoressa ordinaria di linguistica presso l'Università Roma 3. E visto che noi siamo The Voice Anatomy, dobbiamo analizzarla in tutti i suoi meandri, in tutte le sue sfaccettature, questa benedetta o certe volte maledetta voce. Invece in questo caso diamo il benvenuto alla professoressa Franca Orletti. Franca, buongiorno. Ciao Pino, come stai? Bene, che entusiasmo, Franca. Ricominciamo. Aspetta, vai Franca, parliamo di voce. Tu sei sociolinguista, però non sei l'attrice. Però ricominciamo. Buongiorno Franca. Buonasera Pino. Ha cambiato soltanto l'orario del sole. Vabbè. Ma spero che sia entusiasta la mia voce, non lo so, mi ha fatto così piacere sentirti, quindi. Pensa se non ti faceva piacere. Franca, no, mi permetto questa confidenza, che Franca segue da tantissimo tempo il mondo, a parte della linguistica ovviamente, ma anche il mondo del doppiaggio, partecipando attivamente al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio organizzato ogni anno dalla INCE. E allora Franca, io intanto ho parlato di sociolinguistica, a questo punto io, come i nostri ascoltatori, vogliamo sapere qualcosa di più. Cos'è la sociolinguistica e soprattutto di cosa si occupa, Franca? Allora, la sociolinguistica, in pochissime parole, si occupa dell'uso della lingua nella realtà quotidiana, cioè come parlano le persone normalmente. E in questo si differenzia dalla linguistica teorica, che in realtà studia la struttura, la grammatica delle lingue, e noi forse siamo più abituati, noi diciamo come persone che hanno fatto un percorso di studi, siamo più abituati agli studi di grammatica. La sociolinguistica invece ci mostrerà come appunto facciamo una conversazione, come interagiamo con un professionista, come parlano le persone a seconda della classe sociale. E quando la sociolinguistica comincia a osservare la realtà, bisogna dire una cosa, che i sociolinguisti, come gli studiosi di comportamento sociale in genere, sono un po' degli stalker, cioè stanno a osservare quello che... Rischiate la denuncia, insomma. Insomma, nel senso che siamo sempre attenti, no? Siamo un po' maniacali in questo, a quello che succede intorno a noi. Che cosa vediamo? Che la gente parla in maniera diversa, cioè ognuno di noi parla in maniera diversa rispetto a un altro, ma anche un singolo individuo parla in maniera diversa a seconda delle situazioni, degli obiettivi, se parla o se scrive o se digita un SMS. E quindi questa fondamentale osservazione della sociolinguistica è la variazione della lingua. Non si può neanche più parlare di lingua per la sociolinguistica. La lingua rimanda a un concetto monolitico, come una cosa sempre uguale a se stessa. E invece la sociolinguistica dice che la lingua varia. E questo vedremo un po' più avanti quanto è rilevante. Beh, è fondamentale la reazione, appunto. Anche come la studiamo ovviamente come intenzioni la lingua, perché ovviamente un banchiere parla in un modo, un impiegato parla in un altro, un ragazzo di un certo livello parla in un modo, quell'altro in un altro. C'è proprio uno studio profondo da questo, e c'è anche la programmazione neurolinguistica, che tu riesci a capire, certo, secondo una persona come parla, chi è o chi non è. Certo, non è una legge, non è che si basa su leggi definitive, però da quello uno riesce a capire, già dalle appoggiature noi capiamo, e quelle che dobbiamo dare noi in un film, capiamo che direzione sta prendendo quel dialogo. Cioè, per esempio, un esempio stupidissimo per far capire anche alle persone che sono all'ascolto, perché questo vuole essere anche un percorso, prendendo per mano le persone che non conoscono esattamente che cosa significa recitare, o che cosa significa magari impostare la voce, che cosa significano le intenzioni, dove va a appoggiarsi un accento piuttosto che un altro, che cambia poi il significato di una frase. Se io dico a una persona: ti piacerebbe venire al cinema con me stasera? La persona ti può rispondere in mille modi e può significare mille cose diverse. Può risponderti: mi piacerebbe molto venire al cinema con te stasera, e ha un senso. Mi piacerebbe molto venire al cinema con te stasera, ce n'è un altro. Mi piacerebbe molto venire al cinema con te stasera, e ce n'è un altro ancora. Mi piacerebbe molto venire al cinema con te stasera, e ce n'è un altro ancora. Cioè, naturalmente una persona si appoggia su una parola o su una frase in una maniera che poi ti lascia intendere qualcosa. Vedi, ho fatto un esempio un po' da rimorchio. Però, perché io, sì, devo dire la verità, qualche volta ho utilizzato, insomma, la voce per cercare di essere più suadente di qualcun altro che non la sapeva usare. Mai parlare con un attore doppiatore per telefono, quello non, no, bisogna farlo. Ma poi puoi anche fingere, no? Cioè, puoi costruire un'identità attraverso la voce, se hai questa consapevolezza. Tu riesci benissimo, sei un maestro in questo, ma anche la gente comune. E qui ti voglio ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori una cosa che mi è successa proprio di recente, che spiega come possiamo usare la voce. Ero in treno, e sai, in treno ancora oggi si riesce ogni tanto a avviare una conversazione, sì. E ho conosciuto una signora accanto a me che parlava un italiano standard con una lieve inflessione meridionale. Quando questa signora è andata al telefono a parlare, insomma, si sentono, appunto, dicevo, c'era questo effetto stalker della sociolinguista, parlava di lavoro, mm-hmm, e improvvisamente ha parlato in un perfetto italiano lombardo. Ah. Allora, veramente era la professionista, non era più la signora che era preoccupata dei ritardi, che parlava come prima, e dava l'idea del suo impegno professionale. Per cui ha cambiato immediatamente da italiano di un certo e parlava di un italiano lombardo, perché era professionale. Personalmente coinvolta. E non so quanto fosse intenzionale, oppure le venisse normale perché lavora, nel contesto in cui lavora probabilmente serviva quello. Non so quanto. Senti, ci fosse Franca, di consapevolezza, però. Una curiosità, ma ti danno ancora i biglietti dei treni a te, o dopo questi fatti che hanno cominciato a indicarti, a fotografarti come una persona che fissa tutti senza conoscerli per poi prendere appunti, lì riesci a prenderlo il treno adesso? Sì. Sì, certamente. No, ma è così, succede questo, quando fai un mestiere diventa parte integrante della tua vita. Io da lontano leggo le labiali delle persone, per cui mi accorgo quello che dicono da lontano, perché è abituato al doppiaggio. Però questo preoccupa un po', perché riesci a capire certi pensieri che vorresti invece magari sfuggirgli. Ma è divertente questo fatto, è divertente. Io parlo, dico sempre la parola divertente, perché per me chi si diverte ama quello che fa. Non è che devi ridere, anche un medico, un chirurgo mentre opera si deve divertire, da quel punto di vista. Quella solita tu ce n'hai, perché non fai altro che ascoltare per poi capire che cos'è quella persona e divertirti a fare un tratteggio psicologico. Senti, abbiamo una telefonata per te, immagino, qui a Voice Anatomy, e allora è Irene da Roma, se non sbaglio. E allora, pronto Irene? Sì, salve, buonasera. Buonasera. Buonasera, volevo porre una domanda alla professoressa Orletti. In particolare, sono mamma di un bambino di 10 anni. Viviamo in un mondo adesso in cui la comunicazione è sempre più digitalizzata, si parla effettivamente sempre meno, ci si confronta tantissimo tramite SMS, tramite chat, tramite social network. Ecco, io mi chiedevo e chiedevo alla professoressa come incoraggiare i bambini che vivono immersi in questa realtà a scoprire un pochino di più il valore, e a riscoprire il valore sociale ed evocativo della voce. Ma che bello, grazie Irene. Ma bisogna favorire il rapporto con gli altri. Il problema, appunto, come sosteneva, che ormai i nostri ragazzi, i nostri figli interagiscono più a distanza, no? Quindi si digita più che comunicare. E quindi bisogna forse appunto favorire la loro presenza all'interno di un gruppo, la discussione a scuola e anche però attraverso la ricezione, non so, o la visione di film, fare attenzione, riflettere insieme come in un film la voce trasmette determinate identità, personaggi. Una riflessione che io faccio spesso quando parlo di voce e personalità e che cosa trasmette la voce è per esempio l'uso che viene fatto della voce nei cartoni animati. Ormai suo figlio è grande, però probabilmente quando era più piccino attraverso la voce riusciva a capire le caratteristiche del personaggio. Perché, non so, c'è una voce che dava l'idea del bambino terribile, un'altra quella invece del vecchio saggio, non so, esporre il ragazzo ormai, perché a 10 anni sono già ragazzi, a questa varietà di presentazioni della voce. Comunque, secondo me, come sociolinguista, la cosa più importante ancora è favorire la socializzazione. I ragazzi tendono ormai a interagire a distanza, ricreare il senso dell'identità, l'interazione dell'identità all'interno di un gruppo. L'interazione a distanza può essere uno strumento per le amicizie, però bisogna ritornare al rapporto in presenza. Bene, grazie Irene, bellissima. Franca, io metterei il teatro come materia fissa nelle scuole, non per far fare gli attori ai ragazzi, ma proprio per abituarli a comunicare all'esterno, per il gruppo, usare la voce, perché è fondamentale. Poi parleremo moltissimo, c'è un SMS, insegno, ci insegni anche a capire quando ci prendono per i fondelli o quando cercano di fregarci usando la voce. Sì, quando esagero, quando fanno buongiorno, come sta? Noi vorremmo, e tu gli devi chiudere la porta in faccia, immediatamente. Quando uno ve ne accorgete subito, quando uno è finto, mi ami? Sì, ti amo. Tu capisci immediatamente che quella storia dovrà andare a finire da un avvocato. Senti, illunga o Y, d'accordo la voce, ma anche saper leggere e scrivere può essere utile. La illunga, non la Y. No, la Y. La Y, come la chiamate voi in Italia? La Y. È Y. Allora, voi era per l'indirizzo per mandare la mail, eccetera. Senti, prima di fermarci un attimo e poi continuare con te e con un altro ospite d'eccezione, i dialetti. Sono fondamentali per capire una strada piuttosto che un'altra, una sonorità piuttosto che un'altra. Che cosa mi dici dei dialetti, tesoro? Sui dialetti c'è tantissimo da dire. Innanzitutto, i dialetti rappresentano l'identità, no? E l'appartenenza dell'individuo a un gruppo, etnico, a un gruppo anche sociale, perché quando emerge in maniera molto netta il dialetto è chiaro che forse c'è un problema. C'è qualcosa che identifica anche socialmente il parlante. E ai dialetti va associata anche quel concetto che è quello di atteggiamento linguistico. E l'atteggiamento linguistico è la valutazione che noi diamo del parlante in base alla varietà. E noi, nel nostro repertorio, no? Che è un concetto che la sociolinguistica ha sostituito a quello di lingua, per cui noi non possediamo una lingua, ma un insieme di lingue e di varietà, fra cui le varietà regionali e i dialetti. In questo repertorio noi abbiamo anche dei giudizi, delle valutazioni, i cosiddetti atteggiamenti linguistici. Eccolo, fermati qui, c'è un atteggiamento linguistico che dobbiamo assolutamente portare alla trasmissione. C'è un attimo di stop ovviamente per dare voce alle pubblicità che danno la possibilità a noi di andare in voce. Franca, con te torniamo fra pochissimo, anche con voi carissimi radioascoltatori, e con un ospite d'eccezione che ci racconterà qualcosa più di dialetti, è l'amico, l'attore straordinario Enrico Brignano, tra pochissimo qui a Radio 24. Se voi non votate, voi non contate! Non contate! Voi non contate! Voice Anatomy. Se voi non votate, voi non contate! Non contate! Voi non contate! E siete tanto ignoranti quanto dicono quelli della città, mentre vi rubano il cibo dalla tavola e gli ultimi spiccioli dalle tasche dicendovi grazie mille! Perché sareste davvero un branco di zotici e non avete niente perché non meritate niente. Perciò ascoltatemi, aprite le orecchie, levate lo sguardo e guardate in faccia l'innegabile verità. la divina e pura verità. Voi siete zotici e nessuno aiuta mai uno zotico se non... E questo aiuta... era ed è il grande Massimo Rossi, un doppiatore straordinario in Tutti gli uomini del re, dove si è cercata una direzione linguistica particolare, usare un mezzo dialetto, un po' come faceva anche Amendola su De Niro in Toro Scatenato, eccetera. Cosa mi dici di questo, Franca, a proposito di dialetti? Allora, questo è un fatto molto interessante, perché si è inventato da una varietà regionale, no? Esatto. È un dialetto inesistente. Sì, perché non esiste, non è del sud, del nord, no, è un dialetto inesistente. C'è un po' di montano, sì. E poi, questo mi ricordo, ha suscitato molte perplessità anche nel mondo del doppiaggio, no? Perché... è stato coraggioso. È stato coraggioso, e non a caso poi il nostro Massimo Rossi è stato premiato. Sì, è vero. Secondo me è molto... io insomma ho apprezzato invece questa scelta, no? In questo... queste quantità di voci negative e positive, e la mia è una voce positiva, perché il personaggio, che insomma lo ricordo rapidamente, è un uomo che viene di estrazione popolare, che diventa governatore della Louisiana, e lui ci tiene, perché ha una posizione populista, a sottolineare la distanza rispetto ai politici con una cultura elevata. Lui viene dal basso, era un venditore porta a porta, e appunto l'uso di questa varietà costruita a tavolino lo identifica perfettamente, perché innanzitutto è una varietà che suscita anche allo stesso tempo una identificazione positiva con l'uomo, appunto, che si è fatto da solo, ma anche un certo fastidio, perché non è piacevolissima all'ascolto questa varietà. E questo personaggio nel film è tratteggiato da un punto di vista sia positivo che negativo, perché in realtà lui vuole combattere la corruzione, poi lui stesso in qualche modo viene implicato in situazioni di corruzione. La varietà scelta lo identifica perfettamente, quindi è stato fatto un grossissimo lavoro. Sì, sì, l'abbiamo veramente apprezzato. Mi fa piacere questo tuo atteggio. Ma abbiamo un signore romano d'eccellenza, ma nazionale d'estradizione, nel senso che tocca cacciarlo via, di estrazione. Enrico Brignano, sei con noi? Eccoci, ciao, eccolo. Ciao a tutti, allora, come va? Bene, Enrico, mi raccomando, attenzione a te, perché c'è una professoressa di sociolinguistica, per cui... ma io l'ho apprezzo moltissimo, non ho potuto studiare, perché lui usa benissimo le varietà. Mia madre è stata poco bene. Ah, non sei andata a scuola per cui questo motivo. Senti, parlavamo di dialetti, Enrico, io ovviamente ti ho chiamato, sì, sei un amico, ma sei un grande professionista. Io, quando tu fai un percorso dal nord al sud dei dialetti, io posso impazzire, nel senso... che riesci veramente a disegnarli con grande identità territoriale. E allora, visto che abbiamo una sociolinguistica, io vorrei magari un dialetto, e la nostra amica Franca ci fa capire che cosa significa quel dato dialetto. Con quale dialetto vuoi cominciare, Enrico? Io? No. Fammene uno prima straniero, per esempio, quando tu mi fai l'egiziano italiano, l'indiano italiano, com'è quando all'aeroporto? Adesso ci le genti chi le parla di questo da modo, no? Sì. L'Egitto, l'egiziano chi le è romano, io sono da Roma. Sì. Io tante anni che ormai ti dico, va a prendere il secchio, no? Te devo così, ecco, tiri. Praticamente c'è questa miscellanea di suoni che sì. sono nuovi e che stiamo imparando. Tante volte noi attori, questo lo saprai meglio di me, facciamo delle cose senza saperne veramente il senso, ci vengono istintivi perché magari abbiamo una capacità di rifare, risentire, riproporre, reinventare magari un suono che sia gutturale o magari anche di appoggiature. E magari il lato culturale non lo conosciamo affatto, come è successo a me per i dialetti. Io non sapevo che unendo i dialetti del nord con quelli del sud si potesse poi fare un grande successo, avere almeno tantissime preferenze su Facebook e sui social. Ed è arrivato quasi per caso. Tu sai benissimo, Proietti, quanto sia capace nel fare i dialetti. Non tutti, qualcuno lo metteva per puro caso, forse. Non sì, ma tu, quando li fai tu, io impazzisco, non soltanto io, pure qualche decina di migliaia di... È successo per caso, per cui per caso dico che quelli che mi piacciono sono, per esempio, il dialetto calabrese. Com'è, Enrico? Quelle che parlano un po' in questo modo qua, in questo momento... Andiamo con tutto questo di esplosivo,

No? Nel senso che ci riconosciamo nel suo excursus, perché noi pensiamo che il siciliano sia così, noi ha una percezione di un dialetto e lui ripercorre queste percezioni, no? Anche se a volte non, come quando fa l'arabo. Sì, sono suoni, sono i suoni, ma anche sì, il Veneto, Brignano, Enrico, il Veneto com'è, così gentile, così nord-est della nostra nazione, com'è il Veneto? Enrico? Pronto? Enrico, dimmi. Dite, allora, sono qui, abbiamo una cosa e ciò. Allora, mi ha detto che vada, allora no, mamma mia, allora. sono i suoni, perché uno può anche non dire niente, sono i Gramlò da quel punto di vista, e il grande Dario Fo è anche un maestro in tutto questo, sono dei diagrammi sonori, no Franca? Eh sì, come quando fai il Gramlò, che in realtà parlo di Dario Fo, no? Sì. Che è pure lì, è una lingua che ripercorre, costruita, e non si capisce assolutamente quello che dice, però capiamo che questo libro. Quello che avevano detto a me durante il periodo del laboratorio, quindi della scuola, è che il Gramlò, per quanto riguarda il teatro, nasceva proprio per dover e poter fare spettacolo senza che le autorità potessero censurare i testi, insomma, perché il Gramlò è solo una questione di suoni, quanto più vicini al dialetto è che per modo di dire, per modo di fare, uniti alla gestualità, davano l'idea del racconto, ma nessuno poteva trascrivere bene le parole perché parole non ce n'erano. Hai capito, professoressa, che ho invitato? Tu pensavi due ignorantoni dall'altra parte, e invece... Dobbiamo interagire di più io e Brignano. Grazie, scusate se sono intervenuto a unirvi oggi. Che strumento sono? È una lobby per unire voi due. Allora, lasciatemi salutare giustamente i nostri due ospiti, perché dobbiamo fermarci un attimo. Grazie Franca Orletti, professoressa sociolinguista, che noi ritroveremo strada facendo con la nostra trasmissione tutte le domeniche qui da Radio 24. E lasciatemi abbracciare un grandissimo attore, veramente poliedrico, che non lo dico soltanto perché sono ruffiano e sono per radio, ma è veramente un grande, non sono io a definirlo tale, ma è un caro amico, soprattutto Enrico Brignano, in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo. Tanto credo che a breve ci dovremmo vedere, mi pare, o no? Mi pare di sì. Mi pare che venerdì prossimo, non so se sei di quelli, quel della Rai. No, Rai. Mi sa di no, venerdì prossimo, ho fatto questo venerdì, mi sa che ci sei tu quest'altro venerdì. Allora quest'altro venerdì ci sarò soltanto io. Peccato. Porterò l'asta della bandiera, la bandiera la porti tu, io porto l'asta. Va bene, lasciamo le cose così. Ciao Enrico, in bocca al lupo. Ciao per tutto quello che stai facendo, grazie a te, davvero. Grazie, arrivederci. Ciao Enrico. Ciao professoressa, salutami in un dialetto che preferisci, dai. No, io ti parlo così come parlo, c'è sempre una coloritura di qualche tipo. Ma non definita. È non definita. Va bene. Allora, spero di sentirti presto. Assolutamente sì, abbiamo solamente cominciato, Franca, a percorrere questa strada. A chi ci ascolta e chi interagisce con i social media. Grazie mille, ciao Franca. E con voi ci risentiamo fra pochissimo. Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Ebbene signori, sempre qui in compagnia di Pino Insegno su Radio 24, Voice Anatomy, questo viaggio attraverso la voce in tutti i suoi meandri. Allora, abbiamo salutato poco fa la professoressa Orletti e il Enrico Brignano, che ci ha fatto attraversare l'Italia attraverso i dialetti, ovviamente dialetti che sono sonorità, non sono soltanto, non vogliono essere nient'altro. Vi dico qualcosa a proposito degli sms che sono arrivati. Complimenti, che cos'è il Birignao? Internet che ha una voce non ce l'ha. Il Birignao è quando usti questa cosa, è un po' tutto quanto così, questo è un po' il Birignao, buonasera, come sta? Ecco, questo è usare un po' il Birignao, quelle cose eleganti che uno cerca di mettere la bocca un po' a ciccio de sedano, come si dice a Roma, ed è il Birignao. E poi qualcuno mi dice, ma posso fare il doppiatore anche se sono in età avanzata? No, perché il doppiatore è un attore in tutte le sue sfaccettature, cioè devi essere un attore completo per poter affrontare poi il doppiaggio, che devi stare davanti a un microfono, fermo, utilizzando la voce in tutti i suoi modi per dare la forza forza necessaria a quell'attore, per cui la dizione perfetta, le intenzioni perfette, è come se uno dicesse posso fare il chirurgo perché ho la mano ferma, hai fatto medicina, sì, altrimenti non puoi affrontare quel lavoro, però insomma nulla può essere perduto. Bene, abbiamo cominciato con queste sonorità molto particolari a proposito di voce, che è il beatbox. Il beatbox, che cos'è il beatbox? Allora, il beatbox, beh, sentite come ho pronunciato, come nonno l'ho fatto, beatbox. Beatbox consiste praticamente nella capacità di riprodurre tutti i suoni di una batteria e altri strumenti attraverso soltanto l'utilizzo della bocca, pensate, e della voce, non utilizzando varie piste sonore, ma la stessa pista sonora riesce a fare tutte queste cose. Fino ad ora sono svolti poi 3 campionati del mondo di beatbox, pensate, nasce nel 1980, negli anni 80, ad oggi si sono svolti a proposito questi 3 campionati mondiali, e noi abbiamo cercato il migliore, o qualcuno, uno dei migliori sicuramente della piazza italiana, che è il nostro amico Rise, in collegamento diretto da Radio 24 da Milano. Rise, ciao Pino. Ciao, ciao a tutti, ciao. Allora, Marco Martinelli, esatto, sì. Rise, com'è? Io lo stavo leggendo Rise, no? Invece è Rise. È Rise, Rise. Esatto, in realtà è nato come Rise, però diciamo con l'avanzare del tempo i miei amici, a furia di chiamarmi Rise, e io no, Rise, bella Rise, no, Rise, bella Rise, alla fine è rimasto Rise, diciamo all'italiana, quindi pronunciato all'italiana. È rimasto bella P a me, sono esatto. La consonante, per cui pensa un po'. Tu sei classe 90, quanti anni hai? Sei giovane? Sì, ne ho 25, 26 febbraio. Mamma mia, c'hai 2 anni più di me. Senti, tu sei nato nelle periferie di Milano. Io sottolineo periferia perché queste cose come l'hip hop, come il rap, nascono sempre in situazioni, sì, più estreme da questo punto di vista. Un po' raccontano un po' la rabbia di certi posti, come, sì, il rap, nascono eccetera. Un po' per necessità, diciamo, anche a volte. Per cui la tua cultura si fonda sull'hip hop, insomma, sicuramente. Sì, allora il beatbox è visto come la quinta disciplina dell'hip hop. Come dicevi tu prima, è nato in America intorno agli anni 80, ma ovviamente nelle periferie, nei Bronx, nei ghetti americani. Mm-hmm. Ed è nato principalmente come accompagnamento per la musica a cappella, per gli MC, quindi non era visto come una disciplina principale, ma esclusivamente come un supporto ari cantanti che, diciamo, per non utilizzavano gli strumenti, esatto, questo, non avevano il supporto musicale. Infatti, esatto, hai accompagnato in tour un sacco dei nostri grandissimi campioni come Amy Skill, sì, One Mic. Two Fingers, sì, diciamo che allora l'hip hop, il rap italiano è stata la mia passione, il mio genere preferito da quando avevo, diciamo, circa 11-12 anni, quindi inevitabilmente mi sono avvicinato a questo mondo per primo, quindi a livello musicale sono entrato a far parte di questo mondo che è quello del rap italiano, e quindi ho avuto la possibilità di collaborare con tanti artisti che in passato erano anche, diciamo, io ero uno dei più grandi fan di questi artisti, quindi per me è stato un vero piacere. Ma come è cominciata? Ma come è cominciata questa follia? Perché per me è una follia. Ma in realtà io fino a 17 anni circa giocavo principalmente a pallone, quindi io... come tutti qui in Italia, poi esatto, abbiamo smesso anche di giocarci a livelli altissimi. Sì, io il mio percorso è stato un po' particolare perché sono arrivato in Serie C a 17 anni e poi la musica mi aveva preso così tanto che sono andato dal mister, gli ho detto mister, da domani faccio. Come gliel'hai detto al mister? Esatto. Come gliel'hai detto? Gliel'ho detto proprio schiettamente, ho detto mister, cioè, domani non vengo più, ciao. Ah, dritta così, non hai utilizzato una base prima di cominciare? No, ma probabilmente sotto la doccia già aveva iniziato a percepire qualche suono, sì, dagli spogliatoi. Quando hai dato quella capocciata all'arbitro si è capito che volevi smettere lì. Senti, com'è un suono soltanto? Fammene uno soltanto, la batteria, la base. Tu non stai bene, lo sai? Come si fa? La lingua. Io, vedi, faccio il doppiatore, l'attore da 35 anni. Ma una cosa del genere, infatti, quando ci capita di doppiare dei film dove sono questi neri, sto doppiando adesso 50 Cent, per esempio, che tu conosci perfettamente. Ok. E utilizzare certe sonorità non è facile, perché già quando parlano i neri sono straordinari perché cantano, cioè non parlano, cantano. Beh, poi loro ce l'hanno proprio nel sangue, il ritmo dalla nascita. Si capisce, questi come nascono hanno il fisico e il ritmo nel sangue, non ho capito. Vabbè, comunque questa è invidia personale, vabbè, ma non è quello. Ma come si comincia? Cioè, tu da dove hai cominciato? Qual è il suono che ti è uscito? Cioè, quando sei nato, tu sei uscito dalla pancia di mamma, invece di mamma hai fatto... Ma no, in realtà questo è quello che credono un po' tutti. Però no, non è così. Ad esempio, io, Pino, il tuo lavoro non saprei farlo. Io credo che in ogni cosa... Neanche io penso saprei fare il mio lavoro comunque. Comunque, per ogni cosa, cioè, principalmente è una questione di allenamento. Io, la mia bocca è uguale a quella di tutti. Non ho, diciamo, doti particolari. Non è una magia, non è niente. È solamente una questione di tanto, tanto allenamento, tanto senso ritmico, ovviamente, che quello un po' devi averlo innato, perché sennò è difficile fare un beat controtempo se non sai andare a tempo, non so neanche come spiegarlo. Che cos'è il beat? Io lo dico soltanto come mi metto dalla parte di alcuni radioascoltatori che... Il beat è, diciamo, il termine ritmo. Americano per il ritmo, per la base, diciamo. Quindi sì, quando noi facciamo rap, diciamo, il rapper improvvisa le strofe sopra il beat, no? Sopra il beat. E il controtempo? Il controtempo è un beat che invece di... Magari 20. Ah, quando mangi male, male, male. Esatto, ti rimane incastrato qualcosa. Se tu riesci. Questo è il controtempo. È una cosa pazzesca. Sono le leggi. È affascinante, da impazzire. Io credo che la voce, il mondo della voce, per questo abbiamo scelto questo percorso, perché veramente offre dei meandri e delle incredibili geografie, bellissime, sì, infatti... meravigliose, affascinante anche per chi come me fa questo mestiere. Pensate un po', per chi ci sta ascoltando, che rimane, spero sia rimasto affascinato da questo percorso. Ma questo del beatbox, guarda, ci siamo imposti cercando di assolutamente incastrandoti in questa domenica, sperando che la tua squadra del cuore non giocasse in questo orario, o che comunque ti andasse di vederla dopo, sentirla dopo. Di che squadra sei, Rise? Sono interista. Vabbè, siamo proprio... gemellati, dai. Sì, però in realtà, giochiamo stasera. Da quando ero più un calciatore a livello di proprio da giocatore che da appassionato, quindi non è una grande perdita, diciamo, non essere davanti alla TV a guardarsi la partita. Che bello, è bello. Anche perché la radio, secondo me, è uno dei mezzi più belli, insieme a un bel libro, è il mezzo più evocativo che c'è. Cioè, tu stai per radio e puoi dire: siamo a Londra, è il 1860, fa freddo, e la gente sente freddo dall'altra parte. Senti, a proposito... Sofrei uccellini con soffrire. Senti, Rise, rimani lì, non ti muovere. Anche non voi, scappo. Signori, non vi muovete, perché Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Tutto questo lo fa una bocca sola, una lingua sola, è una voce sola, che è quella dell'amico Rise, o Rise. Ciao Rise, da Milano, sempre qui negli studi di Radio 24. Stiamo parlando di beatbox. C'è qualcuno che ci scrive: Pino, dici rap o rap? Che dici? Rap? No, rap. In realtà è rap. Rap, dai. È italianizzato, però non... Esatto. E c'è un altro che dice, a proposito di dialetti, dice: Pino, permettimi di usare il mio, quello di Roma. Oh, ma questo manda per stracci tutti i batteristi. Famone. Grazie. Baci, Pino, salute Risi e complimenti. Grazie mille. Un altro signore, Arthur, di 73 anni, mi dice: Pino, la trasmissione è bellissima, non riesco a capire il motivo per cui il titolo della trasmissione stessa è in inglese. Sarebbe andato bene anche in italiano. Sì, ci abbiamo pensato, ma sai, Voice Anatomy, ricordo un po', a parte Grey's Anatomy, ma non voleva essere questo gioco, di chiamarlo l'anatomia della voce, sembrava un collegamento con un medico tutte le domeniche, che ti diceva di stare attento alle corde vocali, o che comunque spiegava scientificamente l'analisi della laringe e della faringe. Per cui Voice Anatomy ci piaceva. Poi c'è il sottotitolo, che viaggio attraverso il mondo della voce. Proprio per questo abbiamo quest'altro ospite straordinario. Rise, tu so anche che hai un vlog, si chiamano, perché sono quei blog video, no? Se esatto. Non sbaglio. Sì. Il tuo è Rise Beatbox Loop Station Vlog. È il tuo sito dove le persone possono andare a godere appieno delle tue grandissime capacità esatto. vocali. Senti, ma tu fai questo per professione? Io te lo dico perché pure a noi come attori dici, beh, fai l'attore, ma per vive? Sì, io faccio il beatboxer di professione da circa 6 anni. E, pupo. All'inizio, sì, quando ho iniziato, mi ricordo che la prima esperienza un po' forte, diciamo, televisiva, e da quella poi sono partiti già varie occasioni, avevo circa 18 anni. E ero iniziato un po' per gioco e ovviamente studiavo, giocavo a calcio e avevo tante passioni, però la cosa che mi fa pensare, cioè anche quando uno vuol fare l'attore va dalla mamma e dice mamma vorrei fare l'attore e papà voglio fare l'attore e ti dico va a lavorare. Tu come gli hai detto, cioè bene o male l'attore è una professione riconosciuta, è riconoscibile, mamma che gli hai detto, vada a fare il beatboxer, cioè, sì. Tu mi hai pensato che ne hai fa botte con qualcuno? Esatto, sì sì, infatti. Perché, per un sacco di anni detto? Pensavano che io facessi un'arte marziale. Beh, il beatbox quello sì. può sembrare. Ma in realtà non gliel'ho detto subito, perché all'inizio appunto iniziavo a fare le prime serate, le prime ospitate in giro, ma non era niente di ufficiale, forse non gliel'avevo ancora parlato. Mm-hmm. E poi con l'avanzare, diciamo, del tempo e degli anni, all'inizio ci sono stati un po' di problemi, perché sai, il classico figlio che si alza tardi e vive la notte, no? Perché questo lavoro ti porta a vivere di notte, certo. Esatto, un po' per le pubbliche relazioni, concerti e ovviamente senza fare nessun utilizzo di niente, no, raccomando, perché i veri professionisti è su quello che insegnano. Sei la musica, è quella che deve farti ballare, la musica, l'energia. Ma il rapporto del beatbox con la musica suonata com'è? Come si fonde il... Allora, io dal primo giorno, in realtà, io qualche anno fa, nel 2013, ho realizzato il primo album ufficiale uscito in Italia, realizzato completamente senza strumenti e con il supporto dei... Si intitola L'ultimo dei sensi, no? Esattamente, sì. Mm-hmm. E questo è stato da sempre un po' il mio obiettivo. Diciamo che il beatboxer è più visto nel mondo come fenomeno da palco, no? È quel personaggio che sale sul palco, prende il microfono e l'energia della sua musica che esce dalla bocca spinge tutti, diciamo, a provare grande emozione. Sono le famose battle, no? Quelle che ci hanno raccontato anche Eminem nel film. Sì, quello poi 8 Mile. C'è la differenza tra showcase e battle. Sì. La battle sono proprio una sfida tra due beatboxer che fanno diversi tecnicismi, c'è una giuria che giudica chi è il più bravo, secondo loro. Okay. E a me è sempre piaciuto di più vedere il beatboxer proprio come figura artistica, come un musicista. Alla fine l'unica differenza che c'è tra un beatboxer e un musicista, a parte che poi non mi permetto perché ci sono anni di studio per imparare a suonare uno strumento, cosa che io non so minimamente fare, però la cosa bella del beatbox è che io ho sempre amato fare musica, quindi mi ha permesso di farlo senza saper suonare strumenti, quindi lo strumento della voce non è poca cosa. Esatto, come ci si allena, Rise? O Marco? Marco va benissimo. Marco. Ma ci si inizialmente allora, provi a fare degli strumenti. Allora, io ho avuto la fortuna, essendo giovane, di avere il supporto di internet, cosa che aiuta un sacco ormai i giovani e le persone in generale a imparare qualsiasi cosa. Quando ho scoperto il primo suono non sapevo che esistesse il beatbox, cioè l'ho scoperto, ho scoperto il suono ma non la terminologia, e andando su internet ho scoperto che esistesse appunto nel mondo questa disciplina chiamata beatbox, e da lì ho avuto la fortuna di poter vedere qual è stato il primo suono, Marco? Il primo è stato la cassa e il rullante, sono i primi, quindi che sono i primi due suoni che ti permettono di fare un ritmo. Bellissimo. Mi viene da parlare qua solo. Tu fammi un po' una base, io parlo un attimo, vai. Ebbene signori, benvenuti a questa puntata di Voice Anatomy, un percorso attraverso la voce, attraverso i meandri, attraverso le declinazioni che tutta la voce può avere. Ho strecciato un attimo, Marco. Perfetto. Senti, consigli a chi vuole cominciare a fare questa professione, che anche questa è una vera e propria professione, che cosa hai da dire? Io non saprei cosa, come dire, si comincia così, ci si allena così, non lo sì, so. Sì, allora il consiglio che do è innanzitutto di provarci e non mollare dopo 2 minuti, perché non si nasce imparati e dopo 2 minuti è impossibile saperlo fare. Anche io a me ci ho messo tempo. Mi chiamo Insegno di cognome, ho detto comunque non sai quanto imparare. Sì, ci vuole tanta determinazione nel beatbox, perché è molto facile dire no, vabbè, è impossibile, non ci riesco. Invece in realtà, ripeto, la mia bocca è uguale a quella di tutti, quindi se ce la faccio io ce la può fare chiunque. L'importante è avere determinazione e avere senso ritmico. Mai. Esatto.

qualche partita ancora. Oh, no. E io ovviamente ti ringrazio, resta con noi perché stiamo per finire. Volevo ricordare una cosa importantissima, a parte i numeri che ho ricordato per intervenire e il numero degli SMS, ma adesso quello che mi preme dirvi e ricordarvi è il numero verde per la Voice Box, cioè per i vostri provini, per questo talent all'interno di questa trasmissione. Il numero è 800 28 12 12, la segreteria telefonica è aperta tutto il giorno, tutti i giorni fino a domenica prossima. Lasciate lì la vostra interpretazione della vostra frase preferita, del film preferito. Dovete essere dilettanti, questo, non devono chiamare dei colleghi ovviamente, ma voi. Poi il migliore noi lo sceglieremo insieme agli altri miei colleghi e magari si riuscirà a fargli un piccolo regalo a fine anno della trasmissione, per partecipare magari a una giornata magari di brusio insieme ai suoi beniamini. Allora ve lo ricordo, il numero verde 800 28 12 12. Invece, per far diventare la vostra vita un film, abbiamo la nostra mail, che è voiceanatomy con la y chiocciola radio24.it. Questo potete mandare una vostra poesia, la vostra storia, e sarà letta in studio da grandi professionisti come Roberto, e la vostra storia che magari sembrava normale agli occhi degli altri può diventare un film. Ma la nostra vita è già un film. Però dobbiamo essere consapevoli. Quello è sicuro, per cui se racconta la leggi tu, sì, diventa o Prando, o Rossi, o chiunque altro dei nostri amici. Può diventare un film. Emanuela Rossi, ne abbiamo tanti, insomma, di colleghi che si alterneranno su questi microfoni. Allora, è volato. Poi c'è il Twitter, ovviamente, con la chiocciolina e Voice Anatomy. Insomma, abbiamo tutti i social aperti per voi. Spero, ma sono sicuro, che abbiamo fatto una buona compagnia fra un passaggio, un cross dall'altra parte del calcio. Ovviamente c'è non soltanto chi si occupa di calcio, ma qualcuno che vuole sognare la domenica pomeriggio, e questa credo che sia la trasmissione che possa accompagnarvi attraverso il magico mondo dorato della voce, con tutte le sue declinazioni, con tutti i suoi meandri, nascondigli. Noi cercheremo anche di essere i vostri tutorial da questo punto di vista, magari insegnarvi qualche trucco del mestiere. Abbiamo parlato con Albertazzi, con Domitilla D'Amico, con Roberto Pedicini, abbiamo parlato con la professoressa Orletti, la sociolinguista che ci seguirà. Parleremo la prossima settimana ancora con altri personaggi di questa caratura. Enrico Brignano, non dimentichiamo, con i suoi bellissimi dialetti. È stata una puntata che ci avessi avuto l'altro anno gli ospiti così a domenica in, facciamo il 48%, fatemelo dire. E allora a questo punto invece mi collego oltreoceano con i fantastici tre, con Gianni Capuano, Pierluigi Pardo e Carlo Genta, tutti convocati Weekend. Ci siete? Ciao Pino, ci sono io. Chi per sei? Il momento sono solo, che sono vuoi? Giovanni, che voglio. Che vuoi, non Capuano? So, che salute, ma gli altri? Gli altri, uno sta finendo di preparare la trasmissione, mentre Pierluigi oggi è in giro per l'Italia, sì, per campi, sai che noi sta abbiamo per campi, come questo si dice rapporto a Roma. Sta col telefono di Pierluigi Pardo, che è particolare. Ma Pardo mi fa venire in mente Ciufoli, che voleva chiamare il mio collega suo figlio Parde, de nome, perché almeno dice invece Parde Ciufoli. No, è veramente terrificante questa cosa, ma mi fa venire in mente. Sì, ma Ciufoli è così, il suo cavallo l'ha chiamato, sì, Campa, te dico solo qui, Campa Cavallo, e la gatta si chiamava Cicova, lascia stare. Scusami carissimo, mi dai i risultati, che non so niente. Guarda, ti do i risultati, che praticamente siamo ai finali, perché sì, si stanno giocando gli ultimi istanti. Oggi, sì, per la prima di Voice Anatomy ti hanno regalato una domenica piena di gol, tutti 2-2, 2-2 Empoli-Napoli, 2-2 Palermo-Carpi, 2-2 Sassuolo-Atalanta, con anche due rigori sbagliati per non farci mancare niente. Bene. 2-2 era finito anche Verona-Torino, che è l'anticipo che si è giocato a mezzogiorno e mezzo. Non si è giocato Sampdoria-Bologna perché su Genova c'era allerta Meteo 2, quindi visti i precedenti hanno Meteo 2 non è su Rai 2, era Meteo 2 perché c'era... Era Meteo 2 perché c'era il rischio di un grande acquazzone, i precedenti a Genova. Che non c'è stato. Non c'è stato fortunatamente, però c'è un po' di prudenza dopo quello che, certo, è successo negli anni scorsi, e quindi si gioca probabilmente domani pomeriggio. Poi siamo qui tutti in realtà ad aspettare la Lazio. Sì, non lo dire a me, 18. Che non vedo l'ora di salutarvi. E speriamo che non finisca 2-2. Iniziano già a bloccare tutta la zona dell'intorno a casa mia, infatti. Mamma, ma stai tranquillo, stai tranquillo. Cioè. Perché la Udinese è molto più importante del derby di stasera, no? Di Inter Milan. No, sì, per me sì, ovviamente, essendo un povero laziale da questo punto di Inter vista. Inter Milan è storia, ragazzi. Inter Milan, perché da chi lo tocca, ma anche Roma-Lazio quando ci sarà, o Lazio-Roma, certo, insomma. Certo. Poi si vive in una società multilaziale, come ho già detto, allora, per cui bisogna stare tranquilli da questo punto di vista. Bene, questi 2-2 mi tranquillizzano dal punto di vista della classifica, ma il campionato è appena cominciato. Senti, amico mio, allora niente, tu mi hai seguito un po', ci hai seguito un po'? Vi ho seguito, e devo dire che il suggerimento di farsi distrarre un po' mentre seguite le partite di calcio in televisione dove siete, magari potete anche abbassare leggermente la voce dei telecronisti che spesso urlano e ascoltare Voice Anatomy, mi sembra un buon suggerimento. Poi ci pensiamo noi dopo, analizzeremo esattamente come è andato. Analizzeremo tutto. Anche quelli comunque. Guarda, dopo tu lo sai che non vai via, vero? No, dopo ti faccio analizzare un paio di voci. Di sportivi che in queste ore ci hanno fatto sognare. Va bene, amico mio, io ti ringrazio e ci sentiamo fra pochissimo. Questa è una bellissima radio di flusso da questo punto di vista. È bello questa osmosi fra le trasmissioni. Quante parole belle che ho imparato per cominciare ad andare in diretta. Grazie, ci sentiamo fra vocabolario lì. Allora vado con i ringraziamenti. Allora, il programma Voice Anatomy è scritto da Filippo Cellini con Alessia Navarro e Damiano Fabiani Berti, che è sempre la stessa persona ovviamente, non l'hanno scritto in cinque. In redazione c'è Gaia Romani, che ringrazio, come ringrazio gli altri ovviamente. La regia è di Alessandro Chiappini, da qui all'altra parte del vetro, il mio pesce, il mio Nemo, perché lo vedo boccheggiare dall'altra parte e mi suggerisce delle cose ogni tanto, capisco, perché sono un doppiatore, leggo le labiali, altrimenti mi strilla nelle orecchie. Ringrazio Roberto Pedicini qui al mio fianco, come ho ringraziato tutti i professionisti che si sono alternati. Vi ricordo ancora il nostro numero verde per il Voice Box, 828 1212. Mandateci i vostri provini, li faremo sentire, giocheremo insieme e vi sceglieremo. E poi Voice Anatomy con la Y ovviamente, @radio24.it, per racconto della vostra vita. E allora, grazie di questa domenica vissuta con passione. Voice Anatomy ritorna domenica prossima alle 14:30 qui su Radio 24.